e benvenuti su questi posti, buonasera. Ecco, questa è una serata un po' particolare, direi molto piacevole anche e curiosa. Abbiamo il piacere di avere con noi Rosanna Cavallini, accompagnata buonasera da Paolo De Carli, ecco, che ci presenteranno, vorrei entrare nel fascio di luce, ecco, ci presentano appunto i giocattoli in legno tra il XVIII e il XX secolo. Un libro, è nato anche un libro su questo argomento, questa ricerca. Abbiamo alcuni esempi che sono stati esposti qui su questo tavolo e quindi direi che ci lasciamo sorprendere dalla loro relazione, dal loro libro e dalle immagini che hanno portato. Vi porto anche i saluti dell'assessore Tomasini. Vi ricordo che, ecco, i nostri appuntamenti proseguiranno con lunedì prossimo. Questa è una biblioteca che organizza ogni settimana, così uno ha un'occasione di incontro con gli utenti, con autori, con libri o anche con dibattiti. E anche questa occasione era interessante da cogliere al volo, infatti vi ringrazio di essere venuti qui da noi, perché apre sempre dei nuovi scenari, può incuriosire, può spingere a leggere, a documentarsi sempre su temi nuovi, approfondire delle conoscenze di un mondo che ci appartiene o a cui apparteniamo, insomma, a seconda di come vogliamo considerarci. Ecco, io vi ringrazio. Lasciamo sempre sulla sedia un modulo di iscrizione e chi avesse piacere o chi non risultasse iscritto, se vuole compilarlo e lasciarcelo, è assolutamente gratuito, ma è un modo per aderire a questa struttura, che è una struttura pubblica, che ha bisogno di amici e ha bisogno anche di comunicare alle persone quelle che sono le nostre iniziative in tempo reale. Grazie, grazie a voi, buona serata. Buonasera, allora siamo molto contenti di essere a Bolzano a presentare questo nostro libro. È un libro che nasce da un successo, direi, una mostra fatta a Luserna, dove c'è una minoranza, voi sapete, di lingua tedesca, e una mostra direi notevole, dove abbiamo potuto esporre i giocattoli in uno spazio molto ampio, cosa piuttosto difficile. Invece lì l'organizzazione era veramente eccezionale, la mostra ha avuto un successo straordinario con 12.500 visitatori, è stata una cosa incredibile. Perché arrivare fino a Luserna, sì, per visitare il luogo logicamente, ma anche quindi per vedere la mostra, è stato un successo proprio incredibile. Visto il successo, ci siamo detti, noi che siamo i collezionisti, Paolo con la moglie Katia e io, da tanti anni collezioniamo arte popolare, quindi ci siamo detti, forse è arrivato il momento di lasciare qualche cosa di scritto, di mettere per scritto le nostre esperienze e le nostre ricerche. Quindi ci siamo rivolti a un editore, abbiamo detto noi abbiamo questo materiale e vorremmo fare un libro. Il libro volevamo fosse particolare, un libro che piacesse, io dico sempre, da bambini dai 3 anni fino ai 90 e 100, si può anche dire oggi. Doveva interessare gli adulti per le notizie, però piacere anche ai piccoli per la forma. E quindi abbiamo un po' combattuto, però poi siamo riusciti a ottenere quello che volevamo, cioè un formato di un certo tipo e tutti i particolari che abbiamo curato veramente moltissimo, perché sia Paolo che io siamo artisti, veniamo dall'ambito dell'arte, siamo due pittori e quindi penso che abbiamo anche un po' di sensibilità verso il colore, verso quello che è la grafica di composizione di un libro. E quindi abbiamo dedicato veramente moltissimo tempo a questo libro, pensando che potesse essere anche un bellissimo dono da fare sia, come ripeto, per gli adulti che ricordano probabilmente questo tipo di giocattoli, che per i bambini che non li conoscono, ma i nonni li possono descrivere. E quindi il libro è diviso in tre parti. La prima parte è dedicata alle osservazioni che abbiamo fatto su questi oggetti, sul perché sono nati, sul perché sono in legno, sul perché e poi la provenienza, perché trovando l'oggetto che ci piace, noi lo acquistiamo, però poi abbiamo la curiosità di capire di più, e quindi chi lo fa, di dove viene, eccetera. Quindi questo è un lavoro di anni, perché noi ormai collezioniamo da più di 20 anni e non è facile trovare, quindi questo lavoro è stato proprio, è stata la ricerca, quindi chi ha pensato queste cose e chi le ha realizzate. E in più, da cosa derivano? E questa è stata l'osservazione che ho cercato di capire. E guardando, collezionando anche oggetti, ad esempio di cucina, oggetti di strumenti di lavoro, eccetera, mi sono resa conto che i giocattoli sono arrivati proprio dall'uso di strumenti. E quindi vi ho portato qui proprio un piccolo esempio di come dallo strumento di lavoro si arriva poi al giocattolo. Giocattoli che, voi sapete, sono stati prodotti in Val Gardena, no? Val Gardena a un certo momento è stato proprio, ha avuto un successo straordinario in tutto il mondo, infatti molti giocattoli noi li troviamo all'estero, non tanto in Italia quanto all'estero, quindi persino in Australia abbiamo trovato una bambola a manichino. Quindi, dalla suggestione del movimento di uno strumento si arriva poi a concepire il gioco, e questo è ad esempio lo stampo da burro a rullo, è quello che conduce per conto mio a proprio l'uso della rotellina per fare il giocattolo. E oppure gli stampi per dolci, ce ne sono due che hanno proprio inciso due personaggi che sono personaggi che diventeranno poi giocattolo. Quindi questa è stata la prima osservazione. Poi c'è il discorso della componente fantastica che c'è anche in certi strumenti che sono poi abbiamo fotografato nel libro. Il bastone, ad esempio, fatto a forma di serpente, la tabacchiera, lì ne avete un esempio, la tabacchiera fatta a scarpina. Ecco, questa componente l'ho trovata veramente la cosa affascinante di quello che è questa produzione popolare. E poi il legno c'è una consuetudine, no, nelle nostre zone di montagna all'uso del legno, sia semplicemente quello per fare il fuoco che quello che stimola la fantasia. Se voi pensate anche oggi l'uso che fanno molti della radice, no, la radice che ha una forma, ecco, che stimola proprio la suggestione. Quindi questa è, per conto mio, è stata l'origine praticamente di un certo tipo di produzione, che poi diventa mestiere, che poi diventa qualcosa di assolutamente quasi industriale, no? Perché la produzione, che inizia già nel XVIII secolo, a un certo momento questa produzione familiare, dove si esegue tutto, poi diventa a un certo momento talmente specialistica per cui famiglie producevano le gambe della bambola, altre la testa, e quindi c'è già questo tipo di produzione. Nel libro, nella prima parte, noi abbiamo cercato anche di mettere stampe che rappresentino questo tipo di lavoro, stampe che abbiamo cercato, trovato, e quindi è corredato anche da questa cosa, da queste immagini. E l'altra osservazione interessante è dove si ispiravano questi artigiani, no? Dove trovavano queste immagini. E io colleziono da tanti anni le stampe popolari, quelle, non so se voi conoscete la storia del Tesino, i venditori ambulanti, stessa tipo di vendita che fanno i venditori di giocattoli, cioè i gardenesi, che vanno a piedi a vendere questi loro giocattoli. Nel Tesino, nel Trentino, c'è una produzione di stampe fatte a Bassano dalla famiglia Remondini, e ci sono questi venditori ambulanti che per tutta l'Europa e anche oltre vanno a vendere le stampe. Quindi probabilmente in questi percorsi dove queste persone che andavano a piedi dormivano nei fienili, perché chiedevano di poter pernottare in un fienile, si incontravano, e probabilmente c'è proprio la vista delle figure sulle stampe, a un certo momento ispira anche gli intagliatori in legno. C'è un esempio sul famoso cane barbino, cosiddetto, una stampa dei Remondini, e vicino c'è un cagnolino barboncino intagliato in Val Gardena, e se voi guarderete c'è proprio un'assoluta somiglianza, anche perché il viso, la faccia il muso del cane ricorda molto la faccia umana, e questo si riscontra anche nella scultura. E interessante anche, sempre dalle stampe, per conto mio, gli animali esotici, si ispirano, dove trovano queste immagini, e le trovano senza dubbio nelle stampe, in queste stampe popolari. La vendita di questi gardenesi ha un successo enorme nell'Ottocento. C'è tutta una documentazione di personaggi che avevano il giocattolo a casa e poi trovano che è stato eseguito appunto in Val Gardena. Il successo ottocentesco è enorme e strabiliante, del resto come poi la stampa popolare venduta dai Tesini. E per conto mio, per un'altra ragione, perché in ambiente, nel periodo Biedermeier, il periodo che prende questo nome, proprio il periodo dove c'è questa ascesa enorme delle famiglie borghesi, della borghesia, medio e alta borghesia, il borghese che apprezza il lavoro da cui proviene la sua ricchezza, che apprezza il venditore che a fatica, a piedi, vende questi piccoli giocattoli, con anche il concetto di un certo risparmio, acquista molto volentieri questi piccoli giochi popolari che trova nelle fiere, o soprattutto nel periodo natalizio. C'è l'uso cioè la tradizione del mercato, del mercatino natalizio, e quindi questi piccoli giochi venivano venduti soprattutto in quel periodo, e quindi sono acquistati, e c'è un boom enorme di questa vendita, anche perché sono graziosi, sono poetici, sono estremamente piacevoli. Sia quelli in legno che quelli in legno dipinti, perché nel libro abbiamo li abbiamo raggruppati proprio perché, per tipologie, perché siamo rimasti proprio incantati dalla poesia che certi sanno trasmettere. Infatti questo volevamo anche nel libro, e la copertina l'abbiamo voluta così, la bellissima copertina che ha voluto fare Paolo su sua propria idea, è di immaginare un ritrovamento di questo, un po' confuso, diciamo, ma non è corretto forse, cioè questi oggetti, questi giochini raggruppati in una soffitta, infatti l'abbiamo ambientato in una soffitta, ai quali noi abbiamo dato un ordine, perché li abbiamo suddivisi appunto per tipologie. Il giocattolo per le bambine, che era ben diverso da quello per il maschio, perché i ruoli erano molto ben definiti. La bambina poteva, la femmina poteva giocare esclusivamente, direi, con le bambole, perché il suo ruolo futuro di madre, logicamente, era un gioco che ti doveva insegnare come coccolare, come trattare attraverso la bambola quello che sarà poi il bambino. Ci sono alcune tipologie, e qui sono rappresentate, le prime bambole sono le bambole manichino, che venivano usate sia come bambole che come esempio della moda, perché venivano vestite con la moda nei centri, ad esempio, importanti, e poi spedite in modo da vedere qual era quali erano gli abiti dell'ultima moda, quindi come veniva insegnata, oppure erano usati come manichini nelle accademie, venivano posizionati, venivano copiati e poi dal manichino si passava alla figura, quindi era proprio posizionato per le varie posizioni del corpo e venivano copiati. La bambola manichino è la più complessa, diciamo. Poi ci sono le bambole un po' più semplici, quelle da vestire, cioè se voi avete un esempio di una bambola maschile, sono due le bambole rappresentate lì, oppure vestite, ma non erano vestite in Val Gardena. Questo è interessante, perché io le ho trovate su libri, ad esempio, inglesi o anche americani. Venivano chiamate bambole inglesi, ma in realtà sono bambole della Val Gardena vestite in Inghilterra. Quindi erano spedite, vendute in legno e vestite. E sono bambole semplici, perché noi vi rendete conto che non sono le bambole in porcellana, le splendide bambole francesi o tedesche. Sono un'altra cosa, sono bambole semplici e che però con l'abito acquistano, e ne abbiamo volute rappresentare appunto, acquistano anche una certa preziosità, mentre sono bambole che piacciono molto alle minoranze tedesche che fuggono per ragioni religiose in America, e abbigliate al loro modo, ad esempio gli Amish o altri hanno le cuffie, sono vestiti di grigio, quindi abbiamo trovate molte in musei in America, Pennsylvania ad esempio, proprio abbigliate così, con il cestino, con e soprattutto con quelle cuffie, quindi è molto interessante questo. Bambole portate da questi emigranti in America e poi è piaciute moltissimo. La bambola più semplice è quella a tronchetto cosiddetta, non è che un pezzo di legno che con poche sgorbiature viene eseguita la testa, però è la bambola che piace, si usa moltissimo in ambiente contadino, forse perché è quella che costa meno e ricorda molto il bambino fasciato che si usava in ambito contadino. Le donne che andavano a lavorare in campagna per molto tempo hanno sempre fasciato moltissimo, proprio come una piccola mummia, il loro neonato, perché per ragioni di sicurezza, perché almeno era fermo, immobile, purtroppo, però c'è una documentazione contraria, no, a questa fasciatura così fissa che rende il bambino immobile, però in ambito contadino è comprensibile che queste donne che lo portavano in campagna con loro lo tenessero così, insomma, nella piccola culla con un velo davanti perché per le mosche perché non fossero punti delle zanzare, eccetera, però fissi, immobili nella culla. Quindi quella, la bambolina tronchetto è quella che ricorda di più e quindi viene apprezzata in ambito contadino. È però colorata e quindi è piacevole. C'è poi la produzione delle sole teste. Allora, teste che poi vengono montate sul corpo, che di solito è in pezza con dentro della segatura o altro materiale, anche in pelle, ho visto il corpo in pelle sempre con della segatura all'interno e quindi sono fissate su questo corpo. E l'altra cosa interessante sono le bamboline mignon. La più piccola bambola del mondo veniva descritta. Ci sono dei piccoli, degli ovetti che sono proprio piccolissimi, con bamboline all'interno da un centimetro, anche due centimetri, ma la più piccola arriva al centimetro. La cosa strabiliante è che sono snodabili, quindi hanno le braccia e le gambe snodabili e sono veramente, hanno una misura minima, e sono queste curiosità incredibili che però la produzione della Val Gardena è riuscita a fare. L'altro giocattolo molto importante, direi quello forse più apprezzato dai maschietti invece, è il cavallo, cavallino dondolo, cavallo a traino, a spinta. E ecco, il cavallo a dondolo è per il maschietto che doveva così esaltare quella che era la vivacità, anche il discorso della guerra, no? Il bambino ha sempre questa, veniva istruito poi in questo senso, e quindi è il giocattolo preferito dai maschietti. E c'è una produzione bellissima di cavalli che sono anche dipinti, eccetera, con varie tipologie di dondolo, oppure con le rotelle per cui è a traino, oppure per i bambini più piccoli quello semplicemente a traino, tirando con il filo. E un'altra sezione che abbiamo è quella dei vari giocattoli, e quindi anche lì c'è una varietà di cui qui alcuni esempi vi ho portato. L'altro giocattolo, non so se lo conoscete, l'Hampelmann, il burattino a filo, quello che, esatto, tirando il filo così muove le braccia e le gambe. Ecco, c'è una produzione molto carina dove muove anche questa lingua, che è quasi una lingua di fuoco, e quindi l'abbiamo trovato riprodotto su tantissime stampe, proprio questo deve essere stato un giochino apprezzatissimo. Devo dire che mi hanno dato notizia che ancora oggi c'è chi fa le zeberchie, si chiamano, le chiamano in dialetto in Val di Fiemme, e mi è stato detto che veniva messo in casa, veniva appeso al muro, ed era un po' questo personaggio era quasi scaramantico, nel senso che si doveva fare qualche cosa o c'era un desiderio, eccetera, si tirava questa corda, questo burattino per portare fortuna. Quindi questo mi è stato detto ed è interessante, quindi non solo per bambini ma anche per gli adulti, proprio tirare questa corda e questo personaggio. Ecco, devo dire una cosa, abbiamo fatto una mostra di giocattoli a Riva del Garda o Arco? A Riva del Garda? A Riva del Garda, e abbiamo chiesto, è possibile eseguire in grande, per far giocare i bambini, eseguire in grande uno di questi giocattoli? E il comune ha detto sì, e Paolo, assieme a un suo allievo, perché Paolo ha insegnato tanti anni alla scuola d'arte, prima a Trento e poi a Rovereto, hanno eseguito in grande, ma... Quanto sarà? La grandezza uomo, naturale. Una cosa incredibile, sono riuscito a fare questo burattino a filo bellissimo, e devo dire che in mostra arrivavano questi bambini. mio figlio? portano fuori? A scuola gliel'hanno fatto fare, bellissimo. Ecco, infatti è un, estremamente apprezzato. Sì, sì, sì. Ecco, quindi anche facevano qui della civetta e l'orso. Sì, esatto. Sì, sì, sempre in Val Gardena. Sì, sì, certo, ci sono varie, varie tipologie. Sì, sì, ci sono le immagini, vero, dopo? Sì. No, non abbiamo, no? Il, abbiamo quelli a movimento perché non... Purtroppo, non potendo, vedendoli così, non si capisce il movimento. Beh, allora abbiamo, certo, pensato di fare un piccolo problema. Video. Questo è l'Ampelman. Questo sì, esatto. Abbiamo pensato di fare un piccolo video dove mostriamo il movimento di alcuni giocattoli. E, ecco, l'altra cosa interessante è che oltre alla produzione della Val Gardena, che è professionale, cioè abbiamo trovato dei giocattoli dove è chiaro che sono prodotti in casa, e questo ha affascinato in particolar modo Paolo, perché vedere questa ingenuità, che non è più mestiere, è un'ingenuità, è veramente affascinante. E allora questo è, sì, sono gli Ampelman, sempre l'Ampelman a orso, eccetera. Ecco, e quindi abbiamo collezionato, e devo dire ci sono delle cose straordinarie, straordinarie, come si possa arrivare a pensare, è ancora per noi oggi veramente un mistero. C'è questo, ecco, c'è se vuoi farli vedere, sì, devo cercare. Questi, aspetta, ce li ho io. Questi che abbiamo chiamato i turisti perché non sappiamo nemmeno che cosa sia, forse era un'insegna, non lo so, non abbiamo capito bene, ma è talmente notevole la misura. Però vedere questi personaggi con i pantaloncini, quelli in pelle, proprio il cappello classico del tirolese, ma del turista che arriva e che si veste alla tirolese, o le donne col mazzolino di fiori, è veramente, sì, lì non si vede tanto, dopo, la pagina dopo si vede meglio. Ecco, devo dire che siamo veramente estremamente affascinati e ne abbiamo messo una serie anche i giocattoli a rotazione, quelli con il peso sotto, per cui le gallinelle forse le avrete viste. Devo dire che è interessante, perché ecco, sono quelle dalla Val Gardena, poi questa idea del gioco finisce anche in Germania, fino in Russia, e lì hanno prodotto ancora gli ultimi nell'ex Unione Sovietica. Sono i giocattoli in legno, non colorati però, sono proprio solamente in legno, c'è sempre l'orso come personaggio, e non so se li avete mai visti, sempre a rotazione, l'orso fa una serie di cose come pettinarsi, come dare da mangiare, come inseguire il coniglio, una serie di cose, però è proprio lo stesso concetto di movimento deriva dalla produzione della Val Gardena, quindi anche questo è interessante, come poi abbia influenzato questa produzione altre produzioni. E l'altra cosa che ci ha affascinato è stato le scatole. Non so se avete, forse qui nei negozi di antiquariato ci sono, ho visto molto spesso le statue in trucciolo di legno dipinte. Quella è una produzione fatta a Berchtesgaden, e devo dire che sono state anche lì, la produzione è già fine Settecento, poi tutto l'Ottocento, e con una decorazione di un'eleganza anche lì proprio straordinaria. Noi osserviamo molto la decorazione, perché forse perché il nostro lavoro come artisti è chiaro che privilegia, no, questo tipo di decorazione, però sono estremamente eleganti. Questa è la collega Andanti, no? Sì, sì, questa è la, certo, portavano i loro giocattoli i venditori ambulanti, ma la decorazione delle scatole, anche se, quella settecentesca, molto libera, qui le abbiamo... Abbiamo descritta questa decorazione, è veramente un'eleganza unica, e quello che a noi stupisce è proprio che le mani di queste persone, perché questi erano contadini e quindi come lavoravano la campagna e poi aggiustavano i loro strumenti di lavoro e riuscivano anche poi a fare queste cose, a intagliare in questo modo così preciso e così elegante, e donne e bambini di solito erano quelli che invece decoravano con il colore, e quindi però erano mani che lavoravano, e questo è strabiliante, che siano riusciti proprio a raggiungere un livello altissimo di eleganza proprio. E ecco, la terza parte del libro è dedicata a fotografie con bambini, fotografie ottocentesche, fino all'inizio del Novecento, le ultime, dove ci sono bambini con il giocattolo. E questa è la collezione di Paolo, che ha raccolto ormai tantissime fotografie, però quelle dei bambini con giocattolo sono piuttosto rare, perché c'è la foto del bambino, classico, quelle su cartoncino, però con il giocattolo non si trovano spesso. E qui abbiamo messo una selezione, e Paolo ha avuto la fortuna di trovarne una con un bambino proprio col giocattolo in legno della Val Gardena, che credo sia proprio unica, non assolutamente difficile trovarle. Ecco, quindi questo libro, come ripeto, è diviso in tre parti. Abbiamo messo anche all'inizio tutta la decorazione di una scatola bellissima, elegante, e abbiamo così pensato anche al colore, e soprattutto della prima parte, l'idea proprio sempre di Paolo di fare, queste sono le foto. Sono bellissime, c'hanno dei bambini che sono, cioè quella della bambola, no, non sì, si capisce sì. se la bambola o la bambina, perché sono praticamente identiche. E ecco questa, la bambina e la bambola sono identiche. Poi la cosa carina è che questi alcuni bambini sono proprio arrabbiati, perché abbiamo detto ormai non sono felici, hanno il giocattolo, hanno la foto, ma intanto il giocattolo veniva prestato e quindi poi veniva tolto, veniva prestato solo per la foto. Non solo, ma probabilmente il bambino che arrivava con i genitori messo nel isolato, perché avranno detto resta lì che ti fa la foto, certi hanno veramente un'espressione proprio infelice, e anche questo non erano per niente contenti. Anche oggi piangono davanti al computer. Sì, sì. Non credo quello. Ecco. Io capivo niente. Facciamo vedere. Ecco, questo è il Paolo, se vuoi dire qualche cosa tu. No, no, detto bene tutto. La nostra, se volete fare qualche domanda. Solo in Val Gardena venivano fatti, in altri posti? No. Noi abbiamo scelto la Val Gardena perché è nel territorio nostro. E penso ci sia una produzione vicino a Salisburgo, però le altre produzioni, ad esempio anche in Val d'Aosta c'è una produzione di giocattoli, però non sono dipinti, c'è proprio uno stacco netto tra la produzione di giocattoli solo in legno e la produzione dipinta. E a noi interessava molto la produzione dipinta. E poi c'è la Germania. La Germania è una grandissima produttrice di giocattoli. E quindi siamo andati a vedere alcuni musei. Però per conto mio proprio interessante era l'origine, cioè l'idea di arrivare a fare il giocattolo, e per quello ci siamo interessati soprattutto del territorio della Val Gardena, anche in Val di Fassa, cioè, ma perché sconfina. Quando la Val Gardena ha una richiesta enorme di questa produzione, che cosa fa? Chiede alle valli vicine, cioè allarga praticamente il numero degli intagliatori anche nelle valli vicine. Valle di Fassa infatti produce, ma la cosa interessante è che i gardenesi, ormai avvezzi al commercio, quindi non concedono agli intagliatori della Val di Fassa di rifinire il giocattolo, perché pensano possono venderlo per conto loro, quindi c'è una produzione al grezzo, e lì ci sono alcuni cavallini, qui i tre cavallini sono al grezzo, quindi non rifiniti né colorati. Quindi c'è una bellissima fotografia al museo, appunto in Val di Fassa. Intagliavano al grezzo, si caricavano e scavalcavano logicamente per arrivare in Val Gardena e vendevano al grezzo, e poi invece in Val Gardena venivano rifiniti e venduti. Quindi è proprio una ragione commerciale per cui non concedono di rifinire il giocattolo. Però l'altra cosa interessante è invece che il giocattolo eseguito in casa dai parenti, probabilmente o il papà per il bambino o il nonni per i bambini, questa produzione non, come ripeto, non professionale, anche quella interessante, e quella può essere stata fatta ovunque. Abbiamo trovato giocattoli, persone che l'avevano nella soffitta, fatta dal nonno, eccetera, che magari si ispirava o cercava di copiare la produzione professionale, ecco, con questa, come ripeto, ingenuità, che però non toglie il fascino dell'amore praticamente, no? Perché ci vuole amore per poter eseguire per il tuo bambino, per il tuo nipotino, il giocattolo. È per questo che anche ci è sempre piaciuto fare questa mostra, proprio per rinsegnare a lavorare insieme, a spenderlo questo tempo per i propri bambini, e non comprare tutto sempre già fatto, oppure in plastica, oppure ci sono delle cose terribili. Ho visto anche vendere queste armi, fucili, cose del genere, e questo ci fa dispiacere, no? Perché non c'è più, proprio non c'è più la poesia. Abbiamo trovato ad esempio un Hampelmann in legno molto semplice, però sul retro c'è una scritta che ci ha veramente commossi, perché dice adesso non mi ricordo il nome, Sergio mi pare, al Sergio nel 16° compleanno dal suo papà. A 16 anni ancora il papà aveva eseguito. Ecco, ora capisco che i nostri bambini sono, come ripeto, già sanno, però un po' più di attenzione proprio e soprattutto fare delle cose con loro. So che qui vedo questa volontà da parte delle mamme di lavorare insieme per fare delle cose, ad esempio il Natale, no? Si fanno anche le decorazioni per l'albero, eccetera. So che c'è un'attenzione qui in Italia molto meno, vedo proprio, c'è ormai, si acquista tutto perché è così. È così, e invece per conto nostro è proprio importante questo star vicino e stare insieme. Il periodo natalizio è proprio particolare, no? Non sempre si può avere il tempo, ma in certi momenti veramente è importante, importantissimo. Così una mostra qui a Bolzano non è possibile organizzarla. Ma noi siamo disponibilissimi, ma come? Ma dove? Noi non sappiamo a chi rivolgerci. Riparlare, Tomasini di solito come prezzemolo c'è da tutte le parti, perché in tutti i posti che va, lo trovo. Peccato che non c'è adesso, però ne può parlare perché mi sembra una persona molto disponibile e molto interessata alle cose. Perché per i giovani di adesso sarebbe proprio bello che vedessero. Una bella mostra, io penso che invoglierebbe anche tanto. I bambini, gli ultimi nati di questi anni, non sanno neanche di queste cose qua che sono esistite. Lo so. Beh, noi della nostra età sappiamo e abbiamo conosciuto dei certi giocattoli. Ma i bambini di adesso, c'è una bella mostra, potrebbe anche invogliare. Lo so. Questi sono generazione, cosiddetta generazione Z. Okay? Ma sono base errata. E noi apparteniamo, almeno io appartengo alla generazione V. Voi appartenete alla generazione T. Ci sono dei cambiamenti che fanno parte della vita. Allora, è chiaro, quello è bellissimo, fa parte di un'epoca, ma non possiamo dire che quello lo dobbiamo riprodurre qua. Dobbiamo farlo conoscere, quella è una cosa molto interessante. Intendevo far conoscere. Si può ribaltare il discorso e dire, bene, però... Questi ragazzini, per esempio, sanno comunicare, sanno trovare informazioni delle cose che... Neanche ci pensiamo. Però è la manualità che manca. È giusto perché, per esempio, anche io ho tre figlie e sto cercando in tutte le maniere di connetterle con la realtà, perché poi il problema è questo, che si viaggia su un mondo virtuale dove si riesce a fare quasi l'impossibile. Che per poi andare un attimo per il pane dal lattaio diventa quasi un'impresa, no? Perché magari ti ordinano dei libri su internet, però poi i ragazzi fanno fatica ad andare dal bottegaio a chiedere due cose, no? Quindi mi rendo conto. Adesso io lo so per la mostra, poi bisogna effettivamente parlare per un pochino. È un momento terribile perché manca veramente, i finanziamenti sono a terra, perché è un momento terribile questo. Bisogna... Quello che restituisce una cosa del genere effettivamente è un contatto e un favorire, come diceva prima la signora, un clima... di familiare. Mi è passato ieri una notizia anche della televisione di una giornata ieri dedicata al gioco di società. Ce ne sono tantissime che non abbiamo neanche un'idea e che obiettivamente non si usano più. Perché nelle case una volta magari erano presenti dei giochi, non so, anche quelli più tradizionali, però obiettivamente adesso è difficile, perché quando no? un momento quindi un oggetto così fa anche sognare. Esatto. Perché i bambini tutto sommato hanno sempre le stesse esigenze, anche se sono in un contesto completamente nuovo. Perché se tu dai un cavallo così in mano a un bambino è ben incapace ancora, forse ha anche bisogno di... Si fa capire anche che siamo obiettivamente in un mondo anche... Ma questo mondo non lo possono capire, i bambini di oggi vivono in un altro mondo. Sì, però la persona della mia età, vedendo quelle cose lì, mi emozionano. E allora vedere una mostra... Non dico che i bambini possono interessarsi a questi giochi, assolutamente, ma di vedere, capire che c'è stato un mondo prima di loro, che non è stato sempre col computer o con i giochi, il Lego e le cose varie, ma che c'è stato anche un mondo così che ci ha entusiasmato tanto, perché una bambolina di queste... Io ho 70 anni, però io mi ricordo la mia prima bambola e com'erano le bamboline. Cioè, danno emozione queste cose. Perciò una mostra, se si riuscisse a fare, sarebbe interessante. Se lei dice che a Luserna, io ho conosciuto Luserna 50 anni fa, ed era un paesino, immagino che adesso sia un paese molto più grande. Ma non ho di tanto. 40 anni fa, 50, 40, 50 anni fa. Però sei un paesino come Luserna, sono sicurissima. Siete riusciti ad avere 12.580 pesanti. Che cosa può essere? Certo. Diceva la signora che c'era anche... C'è stata anni fa una mostra al Palazzo Mercantile sulle bambole storiche del 1700-1800. Sono sicurissima. Però ci sarà stata la produzione anche quella raffinata, eccetera. Noi è solamente in legno. Solo l'arte popolare. Sempre l'argomento scatto. Sì, certo, certo. Perché giocattoli sono tanti, perché ci sono anche quelli in latta, come diceva il signore, che c'è un collezionista di quelli in latta. No, perché certo. Poi diventa produzione, è tutto un altro mondo. Diventa già un certo tipo di realismo la bambola e in porcellana, tenta di imitare la realtà. Il legno, il bambino se la deve immaginare. Sì, certo. Bambole lerci, però non potevo giocare. Allora c'era mia zia che prendeva un pezzo di stoffa, metteva un po' di cotone, faceva la testa. Sì, mettevo un classico. E io con quello giocavo. Certo, perché il bambino immagina, esatto, certo, certo. Era più bello che la bambola vera, perché la bambola vera era grande e io piccolo. Invece con queste qua me le faceva mia zia. A proposito delle cose, ecco, posso farvi vedere allora questo piccolo video che abbiamo. Aspetta, play, credo sia questo. Ecco, sì. Oh, oddio. Questo movimento a rotazione, ecco questo. Mangiano e fa anche il rumore del becchettare, straordinario. Ecco, questo è russo, la contadina. Eccolo l'orso che suona il piano. Eccolo là. Non si muove benissimo perché è dell'Ottocento, quindi ha qualche difetto. Però... ecco questo, invece che si muove bene. Perché anche lì c'è una grande produzione. E da un lato è colore blu, dall'altro è colore rosso. Ecco, questo è fatto in casa, ma è... Quindi se pensate al lavoro, no? Mostra un lavoro. E c'è anche la farfalla, anche questo è delizioso, il dolce così, il doppio movimento. Queste le due coppie che ballano anche lo trovato. Questo si usa moltissimo. Questo è il fa ginnastica. Penso, perché si giocava così con l'elastico. Questo è anche di una tenerezza incredibile. Questo è vero però. E questo? Questo è il gatto di Venini. Grazie Paolo. È salito sul tavolo e ho detto beh sì, è andato a annusare, lo abbiamo lasciato. Ecco. Grazie. Grazie.